ecco spettaccio, è questi l'ufficiale. Sì, ebben, madama. Io sono signor mio, irritate, sorpresa, al carnevol. Ma sta male? Sta male? Per lui della testa voleva travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso. E perché non partiste? Signor! So proponire la tua disobbedienza. Eccellenza, eccellenza, voi mi dite se spesso quel volta m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mali, ti darò quel che bravi. Io dissi questo? Voi, or datemi padroni in fondo cherubino e dammirò come l'acqua il mio cappino. Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo fa debole qual Dio, rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danze. E che vorresti ballar col piede stravolto? Non mi duol più molto, andiammene fanciulle. Per buona sorte i vasi erano di Creta. Senza fallo, che razza di domande? E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il faggio. Di galoppo di passo, buon viaggio, venite belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta. Certamente, che razza di domande. Via non li far più motti, e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote. E Rubino, or ci sei. Che diamine canta? Non canta no, ma dice che li saldò stamane in sua garrotani. E lo disse sarà. Se ho saltato io stesso, può darsi che anche lui abbia fatto lo stesso. Anch'esso? Perché no? Io non impugno mai quel che non so.